è stata una distribuzione piccola, concentrata, e per cui sono contenta che duri. A questo punto diamo anche tutti i riferimenti internet per seguire il calendario di proiezioni. C'è una pagina Facebook, un sito internet? La pagina Nico non esiste, nel senso che l'hanno fatta ma non è nostra. Però vabbè, la proiezione di domani sera è l'Apollo 11 a Roma. In realtà c'è la pagina di Cosmonauta, che è il mio primo film, che gestisco io, e su quella di solito pubblico tutto, così come c'è Perfetto. I Wonder, che è la pagina della distribuzione del film, c'è Vivo Film, che è la pagina dei distributori. E su queste tre pagine Facebook gli eventi li pubblichiamo. E poi diciamo che ovviamente queste sale che fanno questi eventi sono tutte sale che hanno a loro volta le loro pagine e i loro fan, per cui diciamo non sono sale di grosso circuito, sono tutti cineclub, sale con la loro mailing list, eccetera, per cui è così. Benissimo. Allora, Susanna, un abbraccio e a risentirci presto. Ciao.